Beh, evidentemente la guerra siriana è una guerra globale, è una guerra mondiale, è la prima guerra, diciamo, mondiale post crisi del 2008, e anche su questo, insomma, bisogna dire due parole, perché le crisi economiche producono sempre evidentemente guerre, e le guerre producono sempre crisi economiche. Dal 2008 a oggi, passati ormai 10 anni, da questa enorme crisi finanziaria non si è ancora usciti, e le bocce sono molto in movimento, perché i grandi poteri mondiali non riescono più evidentemente a farsi o far finta di essere governati da quelli politici, e quindi stanno scendendo in campo direttamente attraverso persone, personaggi, governi che sono la loro diretta rappresentazione. Trump è uno di questi, da questo punto di vista è il massimo, diciamo, di una nuova generazione di politici, e dall'altra parte del mondo stanno succedendo cose analoghe. Il fatto che il presidente della Cina, Xi Jinping, possa essere rieletto, e la Cina oggi sia un competitor a livello internazionale degli Stati Uniti, ci spiega anche appunto questo scenario. Altre componenti, diciamo, di minor rilievo apparentemente, sono anche da ritrovarsi nella crisi interna della NATO, dall'Alleanza Atlantica, dove appunto uno dei più grossi esponenti, come sempre stato detto, l'esercito, secondo esercito della NATO, la Turchia, sta di fatto voltando le spalle all'Alleanza Atlantica, almeno nel teatro siriano, dove, diciamo, l'ultima componente, ma non per ordine di importanza, di fatto si sta consumando una lotta molto forte per l'egemonia del mondo arabo, appunto tra l'Arabia Saudita da una parte e Teheran, l'Iran, dall'altra. Quindi la guerra siriana, come si risolverà e si evolverà la guerra siriana, noi vedremo l'evoluzione del mondo nei prossimi anni. In altre parole, la guerra siriana è una guerra costituente, non è una guerra di mantenimento, non è una guerra appunto fredda, è una guerra costituente. Quindi c'è da essere estremamente preoccupati, perché noi non sappiamo chi sta prendendo realmente le decisioni, o chi sta prendendo realmente le decisioni lo sta facendo su una base difficilmente intelligibile e su una base di pochissima chiarezza anche degli interessi che rappresenta: la Francia, l'Inghilterra, gli Stati Uniti, Israele, l'Arabia Saudita, Teheran, Putin e Erdogan rappresentano appunto una scacchiera totalmente impazzita, per cui non è assolutamente escluso che a missile si risponda con altri missili, anche per coprire tante altre cose, appunto le crisi interne di tutti questi paesi. E però poi le spese non soltanto le fa il popolo siriano, ma le fa tutta l'area del Mediterraneo. Quindi la risposta a uno scenario così complesso deve essere almeno a 3 livelli. Il primo livello, personalmente penso che siamo di fronte a una situazione in cui anche l'Italia, che non ha un governo, il prossimo governo, insomma, bisogna che venga spinto a dire qualcosa tipo: noi non diamo le basi, noi non ci prestiamo a quello che è stato fatto in Libia nel 2011 e anche dopo, perché sennò siamo complici veramente di un'escalation. Secondo livello è quello di tenere, per quello che è possibile, molto alta la voce del mondo pacifista, che è scomparso completamente da questa vicenda. Non c'è più una sola manifestazione degna di questo nome, e questo ci dice anche molto della scomparsa, diciamo, di quel pezzo di sinistra in Italia. E il terzo livello evidentemente è quello di tenere aperte le porte dell'informazione era. Noi non sappiamo quello che sta succedendo in Siria, si può raccontare di tutto, e però poi sappiamo che la guerra è la morte della verità, per cui non dico di non credere ovviamente a quello che viene detto dai media mainstream, però sicuramente invito tutti a cercare di ragionare nel contesto più complessivo che ho cercato di dare brevemente, prima appunto di affrettarsi e di gettare la croce addosso a qualcuno o a qualcun altro, perché le responsabilità purtroppo in questa storia sono equamente distribuite. Mi pare di capire dalle tue parole che c'è il rischio che, come dire, la situazione degeneri anche al di fuori della Siria. Sì, perché la Siria è collegata con tutto, è collegato ovviamente alla situazione israeliana e quindi anche di Gaza, è collegato ovviamente alle relazioni, alle tensioni crescenti che ci sono fra la Turchia e la NATO, per quanto riguarda il ruolo della Turchia che si vuole prendere, di fatto si è già presa un pezzo di Siria, e per quanto riguarda il sì o no statunitense alla ratifica dell'accordo sul nucleare iraniano, non ci dimentichiamo che l'attuale capo della sicurezza della Casa Bianca, Bolton, che io credevo fosse sparito e tanti anni fa, ha detto che il miglior modo per trattare con l'Iran è quello di bombardarlo. Quindi evidentemente, se qui cominciano a partire i missili, non partono soltanto purtroppo verso la Siria.